Di conseguenza palesò quanto aveva in animo al suo vicino, dicendo che a voler esprimere la sua idea in merito, la sua opinione, e a lui forse mal s'addiceva l'esprimerne una, era che bisognava avere un cuore di pietra e un animo di ghiaccio per non rallegrarsi a questa freschissima novella della fruizione della dilei gravidanza, poiché tanto aveva sofferto. Senza sua colpa. Il giovane elegantone disse che era colpa del marito, il quale l'aveva obbligata a quella aspettativa, o almeno così doveva essere, salvo che ella non fosse una seconda matrona d'Efeso. Devo portare a vostra conoscenza, disse Mr. Crotters, battendo la mano sulla tavola, sì da evocare un commento sonoro ed enfatico, che il vecchio Gloria Alleluiorum ancora oggi si veniva aggirando qui, uomo d'età con quei suoi pappafichi, e sollecitando con voce nasale che gli si desse notizia di Wilhelmina, la sua vita, come egli la chiama. Gli dissi che si tenesse in pronto perché l'evenienza poteva a testé manifestarsi. In fede mia, vel dirò senza ambagi. Non posso che estollere la potenza virile del vecchio caprone che ha cavato fuori un altro figlio da lei. E tutti si diedero a lodare la cosa, ciascheduno alla sua maniera, benché lo stesso giovane di mondo si attenesse alla sua precedente opinione, che fosse stato un altro e non il coniuge l'uomo sulla breccia, e cioè un chierico ordinato, un portatore di torcia virtuoso o un venditore ambulante d'oggetti vari d'uso domestico. Singolare, veniva dicendo tra sé l'invitato, la mirabilmente disuguale facoltà di metempsicosi da essi posseduta, e tale che il dormitorio puerperale e il teatro anatomico possono essere palestra di simili frivolezze, e che la semplice acquisizione di titoli accademici sia sufficiente a trasformare in un battibaleno quegli zelatori di levità d'animo in esemplari ministri d'un'arte che molti uomini per vari rispetti eminenti han giudicata di tutte la più nobile. Ma, egli aggiunse ulteriormente, può ben darsi che ciò sia per dar sfogo ai sentimenti repressi che tutti li opprimono, perché più d'una volta mi è occorso di notare che insieme ridono coloro che della stessa pece son tinti. Ma con quale appropriatezza, sia lecito il chiedere al nobile signore suo patrono, si è questo forestiero che la concessione di un grazioso principe ha ammesso ai diritti civili, costituito signore e despota dei nostri affari interni? Dov'è più quella gratitudine che lealtà avrebbe dovuto consigliare? Durante la recente guerra, ogni qualvolta il nemico aveva un vantaggio temporaneo con le sue granate, non ha forse questo traditore della sua razza afferrato l'occasione per scaricare la sua arma contro l'impero di cui è inquilino tollerato, pur tremando per la sicurezza del suo 4% di rendita? Lo ha forse dimenticato, come suole dimenticare tutti i benefici ricevuti? O non piuttosto dall'ingannare altrui è passato ad essere zimbello di se stesso, come già è, se la voce pubblica non gli fa torto, unico e solo goditore di sé medesimo. Lungi da chi parla l'impudica idea di violare il talamo d'una rispettabile signora, figlia di un prode maggiore, o di gettare la più lieve ombra sulla virtù di lei, ma se egli ci sfida a rivolgere a ciò la nostra attenzione, e sarebbe stato suo primo e vero interesse il non farlo, sia pure come egli vuole. Infelice donna, troppo a lungo e con troppa pertinacia i suoi legittimi diritti le sono stati negati, perché ella possa ora ascoltare le rampogne di quest'uomo con sensi diversi dalla derisione dei disperati. È lui a dir questo, novello catone, vero pellicano nella sua pietà, che non si è fatto scrupolo, in memore dei legami di natura, di tentare Un illegittimo commercio carnale con una femmina fantesca tratta dalle sfere più basse della società, che più se la granata della giovanotta non le avesse tenuto luogo di angelo custode, mal le sarebbe incolto come all'egizia Agar. Per quel che riguarda i pascoli, il suo umore aspro e bizzoso è ben noto, e in presenza di Mr. Cuff gli procurò da parte di un allevatore indignato una replica cocente formulata in termini diretti quanto bucolici. Mai gli si conviene il predicare quel Vangelo. Non ha egli forse presso di sé un terreno che rimane sterile per mancanza di un erpice? Un abito reprensibile nella pubertà diventa una seconda natura e un obbrobrio nell'età matura. Se egli deve dispensare il suo balsamo di Gilead in panacee e apoftegmi di dubbio gusto, per risanare una generazione di libertini in plumi, cerchino le sue pratiche di meglio conformarsi alle dottrine di che ora è pregno. Il suo seno maritale è ricetto di segreti che il decoro mal s'accomoda di mettere in luce. Le proposizioni lubriche di qualche bellezza gualcita possono consolarlo d'una coniuge negletta e pervertita, ma questo novello paladino del buon costume e sanatore di tutti i mali è, a voler essere benevoli, un albero esotico, il quale, quando era radicato nel nativo Oriente, prosperava e fioriva e ridondava di balsami, ma, trapiantato in più temperato clima, le sue radici han perso il loro prisco vigore, mentre la materia che ne sgorga è stagnante, acidula e inoperante. La notizia fu comunicata con una circospezione che richiamava gli usi cerimoniali della sublime porta dalla seconda assistente sanitaria al più giovane degli ufficiali medici in servizio, il quale a sua volta annunciò alla delegazione che era nato un erede. Quando egli si fu recato negli appartamenti delle donne per assistere alla prescritta cerimonia del secondamento, alla presenza del segretario di Stato per gli affari domestici e dei membri del Consiglio privato, silenziosi nel loro unanime esaurimento ed approvazione, i delegati, insofferenti della lunga durata e solennità della loro vigilia e nella speranza che il lieto evento avrebbe scusato una licenza che l'assenza simultanea dell'inserviente e dell'ufficiale rendeva più agevole, scoppiarono d'un tratto in un agone oratorio. Invano la voce del signor agente di pubblicità Bloom si fece sentire tentando di spronare, attutire, frenare. Il momento era troppo propizio a uno sfoggio di quella ricchezza di loquela che sembrava solo legame e tramite tra indoli così diverse. Ogni fase della situazione fu successivamente sviscerata. La repugnanza prenatale dei fratelli uterini, il taglio cesareo, casi di nascita postuma rispetto al padre e forma ben più rara rispetto alla madre, il caso di fratricidio, noto come caso Charles e reso memorabile dall'appassionata arringa del signor avvocato Bush, che assicurò la soluzione all'innocente accusato. I diritti di primogenitura e i sussidi regali per quel che ha riguardo a gemelli e trigemini, aborti e infanticidi, simulati o dissimulati, fetus in fetu a cardiaco, aprosopia dovuta a congestione, lagnazione di certi cinesi senza cincia, citata dal signor candidato Mulligan, come conseguenza di una riunione difettosa dei bottoni mascellari lungo il ramo mediano, di modo che, come egli ebbe a dire, quel che usciva da un orecchio entrava nell'altro, i benefici dell'anestesia o sonno crepuscolare, il prolungamento delle doglie nella gravidanza avanzata a seguito di pressione sulla vena, la perdita prematura del liquido amniotico, di cui il caso attuale offriva un esempio, con conseguente pericolo di setticemia alla matrice, inseminazione artificiale per mezzo di siringhe, involuzione dell'utero in conseguenza della menopausa, il problema della perpetuazione della specie nel caso di femmine che siano sottostate a violenza carnale, quel terribile modo di partorire chiamato dai brandeburghesi Sturzgeburt, i casi riscontrati di parti multigemini, bispermatici e mostruosi dovuti a concezione durante il periodo catameniale o a unione di consanguinei, in una parola, tutti i casi di umana natività che Aristotele ha classificato nel suo capolavoro con illustrazioni cromolitografiche. I più gravi problemi di ostetricia e di medicina legale furono esaminati con altrettanta animazione delle più popolari credenze circa lo stato di gravidanza, quali il proibire a una donna gravida di saltare una siepe, nel timore che con quel movimento il cordone ombelicale strangolasse la sua creatura, e l'ingiungerle, nel caso di una brama nutrita con ardore e insoddisfatta, di metter la mano su quella parte della sua persona che un lungo uso ha consacrato a sede di castigo. Le anomalie, quali il labbro leporino, i nei, le dita soprannumerarie, il morbo blu, le voglie di fragola e di vino, furono da altri invocate come una prima facie e ipotetica spiegazione naturale della nascita occasionale di quei bambini dalla testa di porco. Il caso di Madame Grissel Stevens non fu dimenticato, e dal pelo canino. L'ipotesi di una memoria filogenetica, avanzata dal delegato caledonio e degna delle tradizioni metafisiche della terra da lui rappresentata, presupponeva, in tali casi, un arresto dello sviluppo embrionale a uno stadio antecedente a quello umano. Un delegato forestiero sostenne contro entrambe queste teorie, con tal calore che quasi strappò la convinzione, quella della copulazione tra donne e maschi dei bruti, cercando conforto, a quanto asseverava, nelle favole antiche, quale quella del Minotauro, che il genio dell'elegante poeta latino ci ha tramandato nelle pagine delle sue Metamorfosi. L'impressione creata dalle sue parole fu immediata, ma di breve durata. Fu cancellata, non meno facilmente di quanto fosse stata prodotta, da una allocuzione del signor candidato Mulligan, con quella vena di piacevolezza che nessuno meglio di lui sapeva sfruttare, postulando come supremo oggetto di desiderio un bel vecchio pulito. Contemporaneamente, essendo sorta tra il signor delegato Madden e il signor candidato Lynch una calorosa disputa concernente il dilemma giuridico e teologico dell'eventualità che un fratello siamese premuoia all'altro, la difficoltà fu deferita per mutuo accordo al signor agente di pubblicità Bloom, affinché la sottoponesse immediatamente al signor coadiutore diacono Dedalus. Questi, silenzioso sino a quel punto, sia che ciò fosse per manifestare con una gravità preternaturale la curiosa dignità dell'abito di cui era investito, ovvero in ossequio a una voce interiore, enunciò brevemente, e ad alcuni parve senza intima convinzione, il precetto ecclesiastico che proibisce all'uomo di separare ciò che Dio ha unito. Ma il racconto di Malachias cominciava ad agghiacciarli di orrore. Quasi per magia, egli evocò la scena davanti ai loro occhi. Il pannello segreto alato del focolare si scostò lentamente. E nel recesso apparve Heinz. Chi di noi non ebbe ad abbrividire? In una mano teneva una cartella piena di letteratura celtica, nell'altra una fiala con su scritto veleno. Sorpresa, orrore, ribrezzo si dipinsero su ogni volto, mentre egli li adocchiava con un ghigno spettrale. Ma attendevo Un'accoglienza del genere, cominciò con un riso demoniaco, del che parrebbe che la colpa sia della storia. Sì, è ben vero. Sono io l'assassino di Samuel Childs. E quale punizione è la mia? L'inferno non ha più terrori per me. Questo è ciò che mi si legge in volto. Oh, secoli, come potrei mai aver riposo? Mormorò sordamente, io che percorrevo orora Dublino con le mie canzoni, e lui sempre dietro di me come un succubo o uno spirito folletto. L'inferno mio e quello dell'Irlanda sono in questa vita. Questo è quanto ho tentato per obliterare il mio crimine. Distrazioni. La caccia alle cornacchie, la lingua erica, ne recitò qualche esempio. Il laudano, portò la fiala alle labbra. Il dormire all'aperto, indarno. Il suo spettro mi perseguita. La droga è l'unica mia speranza. Ah, dannazione! La pantera nera! Con un grido sparì subitamente e il pannello riscivolò al suo posto. Un istante dopo la sua testa apparve alla porta di fronte e disse: Sarò ad attendervi alla stazione di Westland Row alle 11:10. Era andato. Lacrime sgorgarono abbondanti dagli occhi di quella schiera di dissoluti. Il veggente alzò la mano al cielo mormorando: La vendetta di Mananaun. Il saggio ripeté: L'ex talionis, il sentimentale, è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l'immensa responsabilità della cosa fatta. Malachias, sopraffatto dall'emozione, si tacque. Il mistero era svelato. Heinz era il terzo fratello. Il suo vero nome era Childs. La pantera nera era lo spettro del suo proprio padre. Egli beveva droghe per obliterare. Per questo sollievo sia grazie a te. La casa solitaria nei pressi del cimitero è disabitata. Non un'anima viva ci vivrebbe. Il ragno intesse la sua tela nella solitudine. Il sorcio notturno fa capolino dalla sua tana. C'è una maledizione su di essa. È frequentata da spettri. Proprietà dell'assassino.